Albert Camus scrive: l'uomo è l'unica creatura che può rifiutarsi di essere quello che è, condizione che rende ogni individuo un potenziale ribelle. L'uomo può ribellarsi contro l'oppressione e la miseria, può ribellarsi contro una vita che gli sembra senza senso o priva di dignità. Ogni volta che un uomo si ribella è perché ha oltrepassato la soglia della sopportazione. È come se dicesse: finora era ancora possibile sopportare, ora basta, mi difenderò. A questo punto è evidente che un ribelle non cerca sempre e solo il conflitto. Agisce perché desidera proteggere qualcosa a cui tiene molto e che considera prezioso. Chi denuncia l'ingiustizia vuole giustizia. Chi si oppone all'insensatezza reclama un senso. Forse, senza saperlo, ogni ribelle è alla ricerca dell'amore, di una morale o di un qualcosa di sacro. Accanto a ogni negazione ha sempre un'affermazione. Questi due aspetti entrano in contraddizione quando il ribelle, nel momento della negazione, ricorre a mezzi contrari ai suoi principi, ad esempio combattendo la violenza con la violenza, la menzogna con la menzogna. Solo gli spiriti mediocri risolvono con semplicità questo conflitto. Per gli spiriti eccelsi è un terribile dilemma, da cui spesso non riescono a uscire, anche se può condurli alla morte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have ignition. L'altra mattina ho attraversato il centro, mentre da uffici e fabbriche la gente convergeva verso Piazza del Duomo per i funerali degli assassinati. Mi è parso di non aver mai veduto una scena simile. Tra via Manzoni e Santa Margherita i portoni versavano gruppi fitti di impiegati che uscivano e si dirigevano verso la galleria e il Duomo. Pareva si stesse muovendo tutta la città. I negozi chiudevano, le banche abbassavano le saracinesche. Arrivavano a migliaia gli operai della zona nord, infagottati nelle tute che celavano i panni di casa, aggrondati in viso. Il freddo era molto duro, umido. Non ho voluto restare sulla piazza. Quando ho raggiunto Largo Cairoli, fra la folla che si accalcava sui marciapiedi, ho visto passare tre o quattro furgoni funebri, diretti al nodo delle autostrade. Tra pochi giorni è Natale, Natale 1969. Milano è tutta illuminata e addobbata. I negozi in centro sono tutti sfavillanti. Un caffè al bar costa 50 lire. Al teatro alla Scala si rappresenta l'opera buffa in due atti di Gioacchino Rossini e Cesare Sterbini, Il barbiere di Siviglia, con un cast eccezionale, il giovane maestro Claudio Abbado e gli interpreti principali, la bellissima donna della lirica italiana Teresa Berganza e il tenore peruviano, simpaticissimo oltre che molto bravo, Luigi Alva. Al cinema Rivoli si proietta il film di John Schlesinger, Un uomo da marciapiede. C'è una coda molto lunga per vederle, tra l'altro un film anche molto bello. C'è molto freddo, perché a Milano a dicembre fa freddo. Ma non importa, la gente nonostante tutto è in giro, c'è la tredicesima da spendere e così, se non si è in coda per vedere il film di Schlesinger, si fanno le classiche vasche tra Corso Vittorio Emanuele, Piazza del Duomo, Piazza San Babila. Ci sono i regali da comprare. È l'ultimo weekend utile prima di Natale. 7 kg di esplosivo, azionati da un timer, sono compressi in una cassetta metallica. Questa cassetta metallica è stata inserita dentro una 24 ore in similpelle nera, che è stata messa sotto ad un tavolo ottagonale nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura, in Piazza Fontana numero 4, in pieno centro a Milano, venerdì 12 dicembre 1969. Ore 16:37. La banca, nonostante l'ora, è aperta, perché oggi è giorno di mercato. È un appuntamento classico per i clienti della banca, gente della provincia contadina, lombarda e piemontese. La banca conosce le abitudini dei suoi clienti, di conseguenza il venerdì pomeriggio alle 4:30 è ancora aperta, perché in Piazza Fontana ci sta il mercatino degli agricoltori. Siamo alla fine degli anni 60 e il contadino è ancora un contadino e vive con l'unica cosa che possiede, la terra. Nel mio immaginario cittadino, il contadino di quel tempo è una persona grande, carnagione scura, viso solcato da molte rughe, mani grosse come pale, rovinate dal duro lavoro, diffidente e che si fa un mazzo così. Avendo un'attività, perché coltivare la terra è un'attività, in banca bisogna andarci. La tecnologia comincia a muovere i primi passi e anche loro si devono adeguare ai tempi. Il tavolo al centro del salone serve per poter compilare dei moduli e per andare poi in coda allo sportello. Chi ha organizzato l'attentato è consapevole. Il luogo, il giorno e l'ora sono perfetti. Perfetti per una strage. Ore 16:37. E di questa banca rimane ben poco. 17 morti, 88 feriti. È un grande buco in mezzo al salone, un grande buco nero, che non è solo quello provocato dall'esplosione della bomba, ma è anche quello che serve ormai da quasi 40 anni per nascondere la verità. Il buco nero non è casuale. Questa espressione è stata coniata proprio nel 1969 dallo scienziato americano John Wheeler come descrizione grafica di un'idea risalente ad almeno due secoli prima, e cioè che una stella di massa e densità sufficientemente elevate ha un campo gravitazionale talmente forte che neppure la luce può sfuggire. Qualsiasi raggio luminoso emesso dalla Terra viene trascinato indietro dalla forza gravitazionale prima di potersi allontanare molto. Pur non potendo vedere direttamente queste stelle, proprio perché la luce non potrà mai raggiungerci, possiamo però percepire la loro attrazione gravitazionale. E simili oggetti si presentano dunque come spazi vuoti, neri, nell'universo. E questa è la strage di Piazza Fontana, un grande buco nero della storia italiana. Subito sembra lo scoppio della caldaia dei caloriferi, ma non è così. La resistenza opposta dal pavimento di cemento armato scaraventa l'onda d'urto contro le pareti del salone, distruggendo tutte le vetrate e facendo l'inferno. Centinaia di schegge di metallo dell'involucro della bomba sono sparse ovunque e quindi si conficcano anche nei corpi delle persone presenti. Praticamente sono delle pallottole, come del resto migliaia di pezzi di vetro. Membra umane sparse in ogni dove, corpi maciullati, sventrati. Il signor Pietro, al momento dell'esplosione, si trova proprio dal tavolo, al centro del salone, probabilmente per compilare un modulo. Disintegrato. Alcuni dei feriti sono privi di arti. Ci sta anche un ragazzino che si chiama Pizzamiglio. Ha una gamba che gli penzola, ma forse il femore è ancora attaccato. Per i soccorritori la scena è apocalittica. La TV trasmette le immagini, forse un po' edulcorate, un po' tante edulcorate. D'altronde il boss in Rai in quel periodo è un certo Amintore Fanfani. E, per chi non lo conoscesse o non lo ricordasse, ma magari avesse visto un film, ecco, il personaggio interpretato magicamente da Peppino ne Le tentazioni del dottor Antonio di Fellini, vi ricordate la Ekberg, il motivetto bevete più latte, il latte fa bene, ecco, quel personaggio lì aveva delle vedute un po' più ampie rispetto al nostro Fanfani, però sono immagini che colpiscono gli italiani, che guardano il telegiornale della sera. Rendiamoci conto che 25 anni prima circa è finita la guerra e i ricordi, o meglio, gli incubi vanno lì, perché queste sono scene di guerra. E il telegiornale dell'epoca, c'erano due canali, il primo e il secondo canale, e il telegiornale delle 8, insomma, l'Italia si fermava per ascoltare le notizie. E i giornalisti che leggevano, che davano le notizie, erano personaggi che hanno fatto proprio la storia anche del costume italiano. Mi ricordo, non so, Andrea Barbato, Tito Stagno, oppure quelli che sono ancora in pista adesso, come, non so, Emilio Fede, ecco, questi personaggi che hanno fatto proprio la storia. E cosa dice il telegiornale del 12 dicembre? 14 sono i morti, tutti clienti dell'istituto bancario. Gravemente feriti restano all'interno della sede bancaria altri 14 clienti. Vari feriti, conta anche il personale della banca. 13 elementi che lavoravano al pian terreno, nel salone, 14 al primo piano, 5 al secondo piano ed uno al terzo. Gli effetti dell'esplosione riguardano anche l'esterno dell'istituto. Riportano infatti lesioni personali 7 persone che si trovavano proprio sul marciapiede di Piazza Fontana e 2 all'interno del ristorante L'Angelo, sito dietro l'edificio bancario. Uno dei primi ad entrare a prestare i primi soccorsi è un prete, Don Corrado Fioravanti, parroco di Cinisello Balsamo, paese vicino a Milano. Il suo cognome, Fioravanti, forse è presago, ma la strage alla stazione di Bologna è tutta un'altra storia, forse. 30-40 persone gli chiedono aiuto e lui, in una situazione così estrema, fa la cosa che sa fare meglio e dà la soluzione a tutti quanti. Molti muoiono poco dopo, speriamo almeno con la pace interiore. Mi è venuta incontro una ragazza senza un braccio e con l'altro mi ha tirato la tonaca. Padre, ci aiuti. E altri mi hanno tirato la veste. E uno grida, non sento più la gamba, non la sento più. E infatti non aveva più la gamba, non c'era più. Ma c'era anche chi, oltre ad essere rimasto senza una gamba, aveva perso anche un braccio. E così, atrocemente mutilata, giaceva a terra una ragazza. E poi altre voci ancora, mi tolga questo tavolo di dosso, mi tolga questa sedia di dosso, mi tolga questo peso, io toglievo e sotto trovavo mutilati, ustionati, c'era gente che bruciava, gente che si rotolava a terra in fiamme, uno scempio. E allora ho pregato per quelle maschere di sangue, per quei ventri squarciati, per quei poveri brandelli di sangue. E la bomba esplode in Piazza Fontana, in pieno centro a Milano, quindi tante persone lavorano e passeggiano proprio per quelle vie, quindi tanti sono i testimoni e c'è anche un giovane, un ragazzino che si chiama Massimo. E verso le 4:30 del pomeriggio ero chinato sul mio motorino in un garage di Via Larga, tutto intento a limare i condotti del carburatore per farlo andare di più. Ad un certo punto ho sentito un tonfo sordo, forte, opaco, che ha scosso l'aria e i vetri dappertutto. E nel giro di 3 minuti c'era gente che correva e urlava da tutte le parti. E sono uscito nel buio, perché a Milano d'inverno a quell'ora è già notte, e mi sono unito a tutti quelli che confluivano come automi verso Piazza Fontana, dalla parte opposta della strada. Sono però riuscito ad arrivare solo fino all'angolo della piazza, e tutto era già bloccato. Dappertutto arrivavano ambulanze, carri pompieri e auto della polizia, e dopo pochi minuti la piazza veniva illuminata a giorno da potenti riflettori, come se fosse un set cinematografico a 360 gradi. E giravano mille voci, ma nessuno capiva bene cosa fosse successo, e c'era chi diceva l'è stata una bomba, e l'altro che rispondeva ma che bomba, pirla, l'è sciupata la caldaia del gas, e un terzo invece che urlava la caldaia del gas, ma te vis che busche la fa de sota, e la gente urlava, Le sirene urlavano, i vigili urlavano, i feriti urlavano. Eravamo tutti ipnotizzati, confusi, senza punti di riferimento, perché era la prima volta. Ma già allora c'era chi, solerte e premuroso, si preoccupava di informarci di ciò che non avremmo altrimenti mai potuto immaginare. Ricordo con precisione, fra le mille voci confuse, quella sicura ed autorevole di qualcuno che girava fra la gente, ripetendo meccanicamente, in perfetto italiano: «Questi sono gli anarchici, io li conosco, questi bastardi, sono stati loro a mettere la bomba». Se solo avessi potuto immaginare di che cosa quella voce fosse il preludio. E la bomba esplode il 12 dicembre, quindi domani è Santa Lucia, il giorno più breve che ci sia, o la notte più lunga che ci sia. E quindi, come dice Massimo, alle 4:30, 5, Milano è già al buio, e questa città sembra essere sprofondata nell'orrore. Lasciamo Piazza Fontana, dalla cui fontana, un po' in disarmo del Settecento, si può scorgere il Duomo. Ecco, per chi non ci fosse mai stato in Piazza Fontana, addirittura proprio dall'ingresso della banca, proprio dove ci sta la targa ricordo coi nomi delle vittime poste in occasione del decennale della strage, ecco, dando le spalle alla banca e guardando in alto a sinistra, si vede la Madonnina, il simbolo di Milano, bella, importante, imponente, ma sfortunatamente la Madonnina dà le spalle alla banca. Peccato, perché sennò sarebbe stata una testimone oculare perfetta. Ecco, lasciamo per un attimo Milano e andiamo a Roma. In poco meno di un'ora dalla strage, a Roma esplodono 3 bombe che provocano danni ingenti alle cose, feriscono 17 persone, però nessuna vittima, alcuni sono feriti anche gravi. La prima esplode alle ore 16:55 nel sottopassaggio esistente all'interno della Banca Nazionale del Lavoro, sita in via San Basilio. La seconda e la terza esplodono dall'altare della Patria in piazza Venezia, rispettivamente alle ore 17:22 dalla base del pennone alzabandiera del monumento e alle 17:30 sui gradini della porta d'accesso al Museo del Risorgimento, sito nella parte posteriore del monumento medesimo. Torniamo a Milano. Alla banca commerciale in Piazza della Scala, vicinissima a Piazza Fontana, circa 200 metri di distanza, ecco, in quel pomeriggio proprio del 12 dicembre, intorno alle 5 del pomeriggio, un impiegato, Rodolfo Borroni, trova una borsa nera, una 24 ore in similpelle nera, e questa borsa contiene una bomba che non esploderà, forse per un difetto di funzionamento del timer, di fabbricazione tedesca. Si chiama Teonesto Cerri. E chi è Teonesto Cerri? È un perito balistico, è quello che disinnesca le bombe. Nella sua lunga carriera ha disinnescato un numero incredibile di ordigni, c'è chi dice 15.000, comunque è uno che se ne intende. E questo è uno dei pochi mestieri che, insomma, se sbagli rischi di pagare il tuo errore con la vita, e rispetto ai rischi è pure anche mal retribuito. All'epoca dei fatti davano ogni bomba disinnescata tipo 200 lire come premio. Dunque, Cerri è sicuramente bravo, e lo dice il suo curriculum, e lui afferma che ci si trova di fronte ad un dinamitardo esperto. L'esplosivo utilizzato si chiama gelignite, da molti anni in disuso perché è difficile trattarlo, difficile conservarlo, e quindi alla fine degli anni 60 è anche molto raro. In tempo di guerra e anche in tempo di pace ha fatto saltare un sacco di navi che lo trasportavano. Quindi siamo di fronte ad un dinamitardo esperto che utilizza un esplosivo da super esperti. Insomma, visto che la gelignite è così fuori moda, forse smontando la bomba inesplosa si potrebbero scoprire parecchie cose interessanti. Magari, chissà, era una rimanenza di magazzino, di chissà quale magazzino, e visto che è così difficile da conservare. In più, è più facile disinnescarla che farla esplodere. E questo lo dice Teonesto Cerri, e io credo che, insomma, bisogna credergli, no? E questa tesi è avallata anche da altri suoi colleghi poliziotti. Uno, un certo Bizzarri, addirittura afferma che se glielo avessero chiesto l'avrebbe disinnescata lui senza problemi. Però, ci sono dei dubbi che rimangono. soprattutto se si considera l'affanno con cui questo perito balistico del Tribunale di Milano, l'ingegner Teonesto Cerri appunto, nonostante le dichiarazioni, alle 21:12, a pochissime ore della strage, su richiesta del procuratore generale della Repubblica De Peppo, fa saltare la cassetta di metallo con la bomba inesplosa ritrovata alle 17:30 alla Banca Commerciale Italiana, quella di Piazza della Scala, nel cortile interno della stessa banca, dopo averla sotterrata. Addirittura la sua iniziale intenzione sembra in realtà fosse stata anche quella di distruggere insieme alla cassetta la borsa, e sotto solo l'insistenza di un maresciallo artificiere impedì un atto tanto insensato. E questa decisione è misteriosa e inspiegabile. Perché far saltare la bomba vuol dire distruggere indizi preziosissimi, forse addirittura anche la firma di chi l'ha costruita. Però almeno è stata conservata la borsa nera in similpelle che la conteneva. E questa, in ordine di tempo, è la seconda presa in giro che ricevono i signori Giovanni, Giulio, Ennio, Pietro, Carlo, Calogero, Carlo, Paolo, Luigi, Vittorio, Gerolamo, Mario, Carlo, Oreste, Angelo, Carlo, Attilio. Sapete chi sono? Anzi, chi erano? Erano persone come tutti noi, che andavano in banca come tutti o quasi tutti noi. Sì, va bene, d'accordo, la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato, al momento sbagliato, e di crepare perché qualcuno ha deciso così. Ma sono quasi 40 anni ormai che le vittime di Piazza Fontana e i loro familiari sono prese sistematicamente in giro. In ordine di tempo, la prima presa in giro che ricevono questi signori e i loro familiari è circa 3 ore dopo la loro morte. Anzi, alcune di queste persone stanno ancora lottando per non morire. Ci sono le dichiarazioni alla nazione da parte degli inquirenti. I dottori Antonio Amati, Marcello Guida e Luigi Calabresi sanno già tutto. E alle 7:30 circa della sera del 12 dicembre 69 cominciano a parlare. Il giudice istruttore del Tribunale di Milano, il dottor Antonio Amati, telefona in questura e consiglia i questurini di cominciare subito le indagini negli ambienti anarchici. E questo lo scrive il Corriere della Sera, che non è mai stato smentito e querelato il giorno dopo, sabato 13 dicembre. Il commissario aggiunto della Questura di Milano, il dottor Luigi Calabresi, addirittura dichiara che i responsabili vanno cercati tra gli estremisti di sinistra ed emette il suo verdetto, un virgolettato, è opera degli anarchici. E questo virgolettato è riportato il giorno dopo da La Stampa, il quotidiano di Torino, molto vicino alla famiglia Agnelli, nel senso che ne sono i proprietari. E La Stampa non è mai stata né smentita o querelata. Il questore di Milano, il dottor Marcello Guida, in una conferenza stampa organizzata da lui all'interno della questura, intorno alle 7:30 della sera, alla domanda di un giornalista se secondo lui esiste una connessione con gli attentati della Fiera Campionaria e alla stazione centrale del 25 aprile dello stesso anno, e sempre a Milano, dice di non escluderlo. Quelle sono bombe che, per pura fortuna, non fanno vittime. E ovviamente vengono accusati e arrestati una quindicina di persone che sono tutti anarchici. Contro di loro nessun indizio, nessuna prova, ma non vengono rimessi in libertà. Adesso vi leggo cosa ha detto un arrestato dopo che è uscito di galera, quando è riuscito finalmente a parlare e a raccontare la sua storia. E dichiaro i motivi per cui i verbali da me precedentemente firmati sono completamente falsi. Per 3 giorni in questura sono rimasto senza dormire e mi veniva imposto di stare in piedi quando le mie risposte non corrispondevano alla volontà degli agenti. Solo il 3° giorno mi è stato concesso di mangiare. Ma quello che più ha influito nel farmi firmare i verbali scritti dalla polizia sono state le percosse e le minacce. Sono stato schiaffeggiato, colpito alla nuca, preso a pugni, mi venivano tirati i capelli e torti i nervi del collo. Rendeva più terribile le percosse e il fatto che avvenivano all'improvviso, dopo aver fatto chiudere le imposte, e venivo colpito al buio. Ricordo di essere stato colpito dagli agenti Panessa e Mucilli e minacciato dal dottor Calabresi, annunciandomi, con il codice alla mano, a quanti anni di carcere avrei potuto essere condannato, cioè fino a 20. Addirittura uno degli arrestati, un certo Braschi, afferma che durante un interrogatorio è stato invitato da Calabrese a gettarsi giù dalla finestra, e solo lui lo dice, non c'è la possibilità di un riscontro oggettivo, quindi è una dichiarazione da prendere con le molle. Però l'ha detto Compinelli ancora vivo. Un altro, un certo Faccioli, afferma che una notte viene prelevato dalla cella e portato da Calabrese, dal suo braccio destro, forse un po' troppo armato, Panessa, Vito Panessa, nell'Interland milanese. E lì viene fatto scendere e, a fari spenti nella notte, viene inseguito per le strade dell'Interland milanese alla notte. Il pomeriggio del 12 dicembre in piazza del Duomo ce l'avete illuminato, ma in via del Corso non ci sono le luci. Per l'autunno caldo il comune le ha levate. In piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori. Sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del cappotto alzato. Bisogna fare tutto molto in fretta, perché la banca chiude gli sportelli. Oh, come tutto vola così in fretta, risparmia gente tutto così in fretta. Procuratore della Repubblica di Milano, il dottor Ugo Paolillo, cui spetterebbe di condurre l'inchiesta perché è il procuratore di turno quel pomeriggio, non sembra essere d'accordo con la tesi degli attentati di sinistra. Da subito protesta duramente contro la polizia, che procede alle retate negli ambienti anarchici e sinistra estrema extraparlamentare. ammonendo che se non fossero state rispettate le regole formali dei fermi, avrebbe sconfessato il comportamento della polizia. Da Roma giunge il pubblico ministero Vittorio Corsio, che per ordini superiori scavalca di fatto Paolillo, procedendo ai primi interrogatori agli anarchici rinchiusi a San Vittore, il carcere milanese. Al magistrato milanese viene affiancato un verbalizzatore, che ha l'obbligo di essere sempre presente agli interrogatori. A fine anno l'inchiesta viene trasferita a Roma, ed è un record di velocità, 19 giorni comprese tutte le feste. Ma Paolillo continua le indagini che lo stanno portando a battere piste decisamente di destra. Lo aiutano due sottufficiali dei carabinieri, di cui di punto in bianco uno viene posto in pensione, l'altro trasferito alla Spezia, città della Liguria molto vicina alla Toscana e all'epoca anche difficile da raggiungere da Milano o da Genova perché senza autostrada. Paolillo, per quel poco che sono riuscito a scoprire di lui, è una persona molto intelligente, molto seria, ma sfortunatamente per gli anarchici, e forse fortunatamente per lui, non è un eroe, si sente solo, sente terra bruciata intorno a lui e probabilmente, anche giustamente, forse, molla il tiro. Vittorio Corsio, il PM molto apprezzato dalla sinistra parlamentare di allora, promosse nel novembre del 1969 l'azione penale nei confronti di Francesco Tolin, direttore di Potere Operaio, del quale ne ordinò l'arresto per reati mezzo stampa. Reati mezzo stampa, cioè io ti arresto perché tu stai scrivendo qualcosa che non mi piace. Ed è la prima volta che accade dalla fine del fascismo. Codice Rocco, docet. Per una verità storica, per chi non lo sapesse, insomma, per cercare di essere molto precisi, Vittorio Corsio muore ammazzato da estremisti di destra, per la precisione da Pierluigi Concutelli, il 10 luglio del 1976. Per la cronaca, Concutelli e Mario Tuti, un altro estremista di destra molto famoso intorno alla fine degli anni 70, venivano spostati in vari carceri, quando c'era da far fuori un recluso scomodo. Torniamo dal questore di Milano. Marcello Guida è una persona al di sopra delle parti e al di sopra di ogni sospetto. Uomo di fiducia di Mussolini, negli ultimi anni del ventennio ricopre l'incarico di direttore del confino politico di Ventotene, bellissima isola davanti alle coste laziali. Perché Mussolini non ha mai ammazzato nessuno, i suoi nemici li ha sempre trattati coi guanti bianchi e in vacanza li mandava, lo ha detto un noto politico imprenditore, imprenditore politico, non ho ancora capito quale sia la sua prima qualifica. Quindi Marcello Guida stava alla reception del Club Med di Ventotene ad accogliere coi guanti bianchi i dissidenti politici. Non riesco a spiegarmi come un portiere d'albergo possa circa 20-25 anni dopo fare il questore a Milano, che è la questura più importante d'Italia, una delle questure più importanti d'Italia, soprattutto in quegli anni, il 68-69. Signori, mi auguro voi apprezziate la novità di essere riuniti qui tutti insieme, un po' all'americana. Vi dico subito che per il tipo di lavoro che ci attende siamo in pochi e dovremmo essere molti di più, seduti. Da oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini e con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me, in questo momento, alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché tra i reati comuni e i reati politici sempre più si assottigliano le distinzioni che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale, sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già stesi i loro fili invisibili, che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assalta un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi, di occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case di appuntamento accertate in un anno, 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 1.000 schedati in più tra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancarotte fraudolente, dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta, l'uso della libertà, minaccia da tutte le parti, i poteri tradizionali, i poteri costituiti, l'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino, repressione e civiltà. Questura di Milano, la sera del 12 dicembre 1969. L'edificio è la sede centrale della polizia e si trova in un antico palazzo bello, imponente, importante, di via Fatebene Fratelli. È un ex convitto costruito in stile neoclassico, dove studiò un milanese doc che credo tutti conosciamo anche per gioie e dolori derivanti dalla scuola, Alessandro Manzoni. In serata hanno già portato in questura per accertamenti 84 persone, tutte quante del giro anarchico e sinistra estrema extraparlamentare. Quello che sconcerta, almeno a me quello che mi sconcerta, non è la velocità e la quantità dei fermati, voglio dire, bisogna trovare gli stronzi che hanno piazzato la bomba, quindi probabilmente muovendosi più in fretta possibile è più facile scovare gli assassini. Ma il modo di procedere nelle indagini, da subito, senza alternative, e per più di un anno, ufficialmente 16 mesi, si segue una sola pista, la pista anarchica. E la storia dice che la pista era sbagliata. E io ho riflettuto parecchio su questo punto che ritengo nevralgico, fondamentale, anche per la storia patria della nostra giovane Repubblica, l'inizio della strategia della tensione a metà anni 60, o dei 15 anni di stragi successiva a Piazza Fontana, ma anche del decennio successivo, gli anni 90, perché in Italia negli anni 90 ci sono state delle stragi, ma anche quello che succede nei giorni nostri. Mi ricordo qualche anno fa, era il giovedì 2 ottobre 2003, non so, magari pochi lo ricordano perché le notizie si accavallano giorno dopo giorno, arrivarono delle buste con della polvere esplosiva recapitate a giornali, sedi di partito, sedi sindacali in Sardegna. E Pisanu, che allora nel 2003 era il ministro degli interni e quella mattina però era all'estero, era a Lipsia, subito dichiara: sono gli anarco-insurrezionalisti. E io li conosco bene, forse perché magari sardo come loro. E sono dichiarazioni così, senza un lavoro serio di magistratura, magari anche di polizia. Parole, però dette dal ministro degli interni. E all'epoca dei fatti Pisanu, quello che negli anni Ottanta, che era già uomo di governo, uomo vicino al governo, affermava candidamente che il Banco Ambrosiano non sarebbe mai fallito, anzi, da buon democristiano, lo giurava. Ma non divaghiamo e torniamo al 1969 e torniamo all'operato dei questurini in merito alla strage. E io sono arrivato a dare quattro conclusioni. La prima: in questura c'erano solo degli inetti incapaci di fare il loro mestiere, quindi hanno seguito pervicacemente per più di un anno la pista sbagliata, perché erano semplicemente degli incapaci. La seconda risposta è: hanno seguito pervicacemente ma in buona fede la pista anarchica perché i pochi elementi in loro possesso, il poco personale a disposizione, sì, magari un pochino di parocchi, però però la buona fede, insomma, io di fronte alla buona fede mi tolgo il cappello, anche se ci sono stati dei gravi errori. Me lo rimetto subito dopo perché mi sono dato anche una terza risposta. Gli anarchici, e questo un po' ce lo spiega, ce lo dice anche la storia, erano un po' i più deboli, poco simpatici alla cittadinanza, senza nessun referente politico. E in altre parole, non avevano il sederino parato né dalla politica e né dalla polizia. E quindi era un bersaglio semplice. Intanto diciamo che sono gli anarchici e poi magari cerchiamo la vera verità. È quasi come però sparare sulla Croce Rossa. La quarta risposta che mi sono dato... E se fossero stati veramente gli anarchici a mettere la bomba in Piazza Fontana? Ma pensate un po', una strage risolta nel giro di poche ore. Ma dai, è tutto talmente bello che sembra tutto un po' finto. Studiato prima, ma prima... E soprattutto immaginando, sotto un cielo di colori, bianchi e neri, voli, con le mani in avanti, col sorriso di chi sente, speri, credi, di trovarti ancora lì, ascoltare te, di trovare la bontà di chi non c'è. Di raccogliere i sorrisi di chi come me compiacersi di quei visi di bambini come te. Voli e i sospiri e le carezze leggere e frementi come il primo bacio di un aprile ancora acerbo, il profumo delle viole cullate da quel vento, anche lui oramai passato. E poi sorridere con tristezza per questa nostra amarezza, per questa certezza che la vita no, non è come tu vuoi, ma c'è il conforto di camminare con voi. E poi sognare con discrezione, chiudere gli occhi con rassegnazione per questa nostra evasione di chi oramai conosce la lezione. Ma non sei solo in questa negazione, c'è il conforto di morire insieme, stretti, stretti, vicini, all'ombra di mille fiori ci uniremo in coro, con le lacrime di noi bambini innaffieremo il nostro giardino, voli. Per andare ai funerali di Giuseppe Pinelli ho percorso i viali verso Ponte della Ghisolfa. C'era molto traffico. È l'ultimo sabato prima di Natale, sabato 20 dicembre 1969. Dopo via Bodio, sulla discesa del ponte che si prolunga verso occidente con un lungo nastro sopraelevato di cemento, mi è venuto addosso accecandomi il sole già basso al tramonto, rosso, tutto faville. Riconoscevo la Milano futurista, espressionista, anarchica degli anni 10. I raggi trapassavano un'aria polverosa, gelata, foglie e carta. I piazzali confusi, l'erba secca sulle aiuole sparti traffico. La strada era nera di folla, fra le due pareti di case popolari. Donne, occhi rossi e lo scialle si affacciavano. Qua e là fotografi appostati. E mi sono detto, quanti siamo? Ma forse non siamo in molti, non siamo neanche un migliaio. Chissà quanti non sono venuti per paura. Uditemi e tacete. La calunnia è un venticello, un'auretta assai gentile, che insensibile, sottile e leggermente, dolcemente, incomincia a sussurrar. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nelle orecchie della gente si introduce destramente e le teste di cervelli fa stordire e fa gonfiare. Dalla bocca fuori uscendo lo schiamazzo va crescendo, prende forza, poco a poco vola già di loco in loco. Sembra il tuono, la tempesta che nel sen della foresta va fischiando, brontolando e ti fa d'orror gelar. Alla fin trabocca e scoppia, si propaga, si raddoppia e produce un'esplosione come un colpo di cannone, un tremuoto, un temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombar. E il meschino, calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello, per gran sorte, va a crepar. Ed è un'aria del Barbiere di Siviglia. E vi ricordate all'inizio, quando ho fatto un'introduzione, ho detto che il Barbiere di Siviglia è un'opera di Gioacchino Rossini e Cesare Sterbini, in scena al Teatro alla Scala proprio nei giorni della strage. E quest'aria, La calunnia un venticello, è molto appropriata, direi, a Giuseppe Pinelli. E tra gli 84 fermati, in questura la sera del 12 dicembre, per accertamenti, ce n'è uno che si chiama proprio Giuseppe Pinelli. E adesso vi racconto un po' la sua storia. È chiamato Pino da tutti e nasce a Milano, quartiere Porta Ticinese, un quartiere popolare della Milano, quella che lavora, che ha sempre lavorato, il 21 ottobre 1928. Finite le elementari, lavoro, prima come garzone di fornaio, poi come magazziniere, cercando di colmare le lacune della mancata istruzione scolastica, leggendo per tutta la sua vita centinaia e centinaia di libri, che credo che sia un bel esempio da seguire anche per gli eventuali laureati in ascolto. Quindi, a 12 anni non ancora compiuti, la guerra. La guerra finisce che lui non ha ancora compiuto 17 anni. E però, nonostante la giovane età, ha fatto in tempo a diventare partigiano, o meglio, staffetta partigiana nella formazione socialista Franco delle Brigate Matteotti. E questi sono dati di fatto. Non voglio esaltare la figura di Pinelli, cioè magari sì, comunque mi sta simpatico, però questi sono dati di fatto inconfutabili. Voglio dire, anche Mike Buongiorno, che mi fa schifo, è stato staffetta partigiana esattamente come Pinelli, e lo direi come dato di fatto se io facessi un giorno impazzendo uno spettacolo su Mike Buongiorno. Si avvicina seriamente all'anarchismo, non Mike Buongiorno, ma Pino Pinelli, intorno al 1952, frequentando una scuola di Esperanto, quella bella idea di lingua studiata a tavolino che doveva unire i popoli e che poi ha unito solo un po' chi l'ha creata. E lì incontra Licia Rognini, la donna che diventerà sua moglie nel 1954. E da questo matrimonio nasceranno Silvia e Claudia. Sempre nel 54, oltre a sposarsi, vince un concorso ed entra nelle ferrovie come manovratore a Porta Garibaldi, una delle stazioni secondarie di Milano. E queste sono notizie della vita di Pinelli, molto simile alla maggior parte delle persone, soprattutto di quegli anni, di chi era ragazzo durante la guerra. In effetti era una persona normale come tutte le altre, però con una passione che lo distingueva: la politica. E per cercare di capire meglio questa sua passione ho tratto un articolo apparso su A qualche anno fa, una rivista anarchica, che ne disegna un po' il profilo politico. E nel 1963 si unisce ai giovani anarchici della Gioventù Libertaria. Due anni dopo è tra i fondatori del circolo Sacco e Vanzetti, finalmente una sede anarchica, dopo che per un decennio i compagni erano costretti a chiedere ospitalità soprattutto ai repubblicani. Nel 1968, dopo che lo sfratto costringe a chiudere il Sacco e Vanzetti, il primo maggio, pochi giorni prima che scoppi il maggio francese, si inaugura un nuovo circolo in piazzale Lugano 31, a pochi metri dal ponte della Ghisolfa. Il clima sociale è surriscaldato e tale rimarrà per tutto l'anno successivo. Al circolo si succedono cicli di conferenze, riunioni di studenti, assemblee, e vi si riuniscono alcuni dei primi comitati unitari, i mitici CUB, che segnarono la prima ondata in quegli anni di sindacalismo di azione diretta, al di fuori delle organizzazioni sindacali ufficiali, la CGL, la CISL, la UIL. E Pino è tra i promotori della ricostruzione della sezione dell'Unione Sindacale Italiana, l'USI, l'organizzazione di ispirazione sindacalista rivoluzionaria e libertaria. Il circolo diventa per Pino la seconda casa. A volte la prima, si lamenta Alice, che lo vede sempre di meno. Ed è lui a promuovere l'organizzazione della biblioteca e poi, dopo tante arrabbiature, a mettere i lucchetti agli armadi per farla finita con la scomparsa dei libri, tutti con la loro copertina nera, schedati, ordinati. Alla domenica mattina, quando nel circolo si ritrovavano i vecchi, c'era quasi sempre lui, che era il più vecchio insieme a Cesare tra i giovani, ma certamente un giovane tra quei vecchi spesso attivi prima del fascismo, prima cioè che lui fosse nato. Infatti c'erano dei vecchi anarchici milanesi che avevano superato anche abbondantemente gli 80, i 90 anni. E negli ultimi mesi della sua vita Pino è particolarmente coinvolto dalle attività connesse con gli arresti dei vari anarchici, accusati, come dicevo prima, delle bombe esplose il 25 aprile del 1969. Ai compagni detenuti a San Vittore, che poi saranno tutti assolti nel giugno del 71, dopo aver trascorso alcuni di loro 26 mesi di carcere preventivo senza processo. Pinelli assicura l'invio di soldi raccolti tra i compagni, amici, fa arrivare pacchi di cibo, vestiario e i libri che lui stesso porta alla portineria del carcere. E nell'ambito della appena costituita Croce Nera Anarchica si impegna nella costruzione di una rete di solidarietà e di controinformazione che possa servire anche in altri casi simili. Quando, verso le 19 del 12 dicembre, Calabrese e gli altri dell'ufficio politico piombano nel quartiere ticinese, Pinelli è appena arrivato per lavorare un po' con un altro compagno alla sistemazione dei locali della seconda sede anarchica in fondo al secondo cortile di via Scaldasole 5, perché c'è l'inaugurazione che è prossima, intorno a Natale, e Pinelli viene invitato a seguire i poliziotti in questura, anzi a precederli col motorino, perché Calabresi sapeva che lui aveva una moto, un Ungarelli 350, e Pinelli e Calabresi un po' si conoscevano, Calabresi si fidava di Pinelli, e quindi gli chiede se può precederli addirittura col motorino. Ma uno che poi viene sospettato di strage, è normale farlo andare in questura coi propri mezzi, ma se non avesse avuto il motorino, minchia, l'Alfa è piena, piglia l'autobus. E la strada che da via Scaldasole 5 porta in questura a Milano, in via Fatebene Fratelli, lui la conosce molto bene, perché c'è già stato tante volte in questura a chiedere l'autorizzazione per fare il tacchinaggio dei manifesti, ma anche per gli interrogatori, le lusinghe, le minacce, le richieste di nomi, gli indirizzi, le informazioni, le solite regole del gioco, soprattutto in quegli anni. Ma questa volta è diverso, è molto diverso. Giuseppe Pinelli, detto Pino, l'anarchico. E questo è vero, è giusto, figuriamoci. Però non ho mai sentito dire, soprattutto dalle autorità, durante i processi, ma anche dalla stessa polizia, non ho mai sentito dire nessuno, non so, Giuseppe Pinelli, detto Pino, il ferroviere. Non ho mai sentito nessuno dire Giuseppe Pinelli, detto Pino, papà di Silvia e Claudia. Non ho mai sentito dire nessuno Giuseppe Pinelli, detto Pino, la staffetta partigiana. E non ho mai sentito dire nessuno Giuseppe Pinelli, detto Pino, che solo con la quinta elementare era un lettore di centinaia e centinaia di libri. No, ho sempre sentito dire l'anarchico Pinelli, giusto, giusto, lui sarebbe fierissimo di essere chiamato l'anarchico Pinelli, però usando la buona fede. E personalmente penso sempre male di chi utilizza la parola anarchico quando parla di Pinelli, soprattutto le grandi autorità, i poteri costituiti. E l'ho capito in quell'estate del 2003, quando cominciai a fare tutta questa lunga ricerca e poi questa scrittura di questa narrazione che oggi vi racconto. E fino all'avvento di Wikipedia, che adesso è la Bibbia di tutti, c'era lo Zingarelli per me, e quindi il mio maestro delle elementari, Antonio Calvia, partigiano, mi disse una volta, e continua a ricordarmelo, quando tu non sai bene cosa vuol dire una parola, c'è lo Zingarelli e lui ti dice sempre tutto e ti dice sempre la verità. E così io ho uno Zingarelli vecchio, una decina d'anni, e lo sfoglio comunque spesso quando non so i termini. E nel 2003 ho detto, ma andiamo un po' a vedere cosa dice lo Zingarelli sulla parola anarchico. E sull'aggettivo anarchico, lo Zingarelli del 99 si esprime in questo modo. Proprio dell'anarchia. Per estensione, disordinato, caotico. E l'estensione è una spiegazione ulteriore della prima spiegazione fatta dal dizionario, casomai non fosse stato abbastanza chiaro. Sempre il mio maestro, Antonio Calvia, partigiano genovese, mi disse «Leggi sempre tutto, non fermarti all'inizio, vai fino in fondo alle cose». E così io proseguo a leggere, anarchicamente, l'avverbio «fautore dell'anarchia». Per estensione, chi è insofferente per ogni regola e disciplina. Poi mi cade l'occhio su anarchismo. Uno, atteggiamento anarchico. Per estensione, tendenza generalmente priva di fondamento ideologico o politico a rifiutare qualsiasi forma di autorità. Esempio, l'anarchia dei giovani. E l'esempio è una spiegazione ulteriore all'estensione, che è una spiegazione ulteriore alla prima spiegazione fatta dal dizionario, casomai non fosse stato abbastanza chiaro. Due, l'organizzazione della vita sociale teorizzata dagli anarchici. Ah, ma dai, ma allora c'è un'organizzazione, una teoria, che mi sembra esattamente il contrario del punto 1. Comunque è il punto 2, viene dopo. Poi proseguo la lettura dello Zingarelli e mi cade l'occhio su anarcoide. 1. Chi è propenso all'anarchia. 2. Spregiativo. Che ha tendenze ribelli e insofferente d'ogni disciplina. Esempio, carattere anarchico che assume atteggiamenti anarchici. E l'atteggiamento anarchico è la seconda volta che appare sullo Zingarelli. E l'atteggiamento anarchico, insomma, la lingua italiana è molto precisa, ci sono tantissime parole, circa 140.000, e ogni parola ha un significato ben preciso. Quindi lo Zingarelli ripete per due volte atteggiamento anarchico. E quando io faccio queste narrazioni in teatro oppure nei luoghi di chi mi ospita, a volte chiedo se per caso ci fosse un anarchico in sala per farmi un benedetto atteggiamento. E nessuno, anche in luoghi decisamente anarchici, nessuno è mai salito sul palco a farmi un atteggiamento anarchico. Solamente una volta un signore sui 50-55 mi ha tirato fuori il medio. Adesso non so se era dedicato a me questo medio oppure se era veramente un atteggiamento anarchico. Adesso c'è la parola più importante, anarchia. Cosa dice lo Zingarelli sull'anarchia? 1. Mancanza di governo, stato di disordine politico dovuto a mancanza o debolezza di governo. Esempio, cadere nell'anarchia. E questo esempio, cadere nell'anarchia, l'ho sentito tantissime volte, soprattutto quando, non so, è scoppiata la guerra in Iraq. E insomma, per qualche anno i giornalisti, quelli che facevano finta di essere in Iraq, dicevano c'è il rischio che il paese cada nell'anarchia. Per estensione, disordine, indisciplina. Esempio, in questa casa vige l'anarchia. In questa casa vige l'anarchia. E così un giorno mi è venuta in mente la battuta, ma sarà per caso la casa delle libertà. 2. Concezione e movimento politico sorti nella seconda metà dell'Ottocento che propugnano un ordine fondato sull'autonomia e la libertà degli individui contro ogni forma di Stato e potere costituito. Oh, siamo arrivati alla fine, ho letto queste due righe che proprio in estrema sintesi spiegano, ma proprio in maniera molto superficiale, cosa potrebbe essere l'anarchia. E al punto 2 non ci sono né estensioni né esempi, è abbastanza chiaro, insomma, è alla fine. Prima c'è il disordine, in questa casa vige, e la gente legge il primo punto, poi già al secondo si è addormentata. Quindi se sul dizionario c'è la parola anarchia è forse anche perché è esistito Bakunin, e tutto il resto sono opinioni opinabili. Bakunin è un intellettuale, e ridurre un intellettuale dell'Ottocento, che insomma è conosciuto ancora adesso, negli anni 2000, ridurlo a in questa casa vige l'anarchia, insomma. E Pinelli a casa sua, Pinelli l'anarchico, a casa sua ospitava e aiutava i suoi compagni bisognosi, e una branda su cui dormire, un piatto di pasta, non lo rifiutava a nessuno. E sua moglie Licia scriveva a macchina tutto il giorno tesi di laurea per arrotondare, perché questo tipo di ospitalità, questo tipo di aiuto costa. Lui era un ferroviere e doveva mantenere le due figlie, se stesso, la moglie. L'anarchia dei giovani, insomma, l'anarchia dei giovani, sì. Pinelli aveva 41 anni quando è morto perché anarchico. Ok, non c'entra nulla con la strage, vabbè, però era un anarchico, qualcosa avrà combinato. E attenzione, è facile cadere in questo tranello che è il pregiudizio. Spesso ci cadiamo, anche, voglio dire, in modo tranquillo, anche per delle scemate. Io spesso cado nel tranello del pregiudizio, però, voglio dire, finché si tratta di un film, uno spettacolo teatrale, no? Per dire, io i film con Christian De Sica non li vado a vedere, ma per pregiudizio. E però chissà, magari mi sono perso, mi perderò un suo capolavoro, ma non credo di fargli del male a Christian De Sica se non vado al cinema a vedere il suo bel faccione presente sul grande schermo. Però credo che Pinelli meriti un po' di attenzione maggiore, no? Non trovate, anche per il modo in cui è morto. Ma come è morto Pinelli? L'ufficio di Calabresi, di Luigi Calabresi, è al quarto piano della questura di Milano. Le misure di questa stanza sono 3,56 m per 4,40 m, e all'interno di questa stanza ci sono diversi armadi, la scrivania, alcune sedie, la poltrona di Calabresi, e c'è la porta d'ingresso, e poi certo c'è anche la finestra, mi stavo per dimenticare. E all'interno della stanza ci sono, oltre all'anarchico Pinelli, ci sono i brigadieri Vito Panessa, Giuseppe Caracuta, Carlo Mainardi, Pietro Mucilli e il tenente dei carabinieri Savino Lograno, che saranno tutti per meriti elevati di grado nei mesi successivi alla morte di Pinelli. E poi, forse sì, forse no, forse chissà, Luigi Calabresi, il proprietario della stanza. Pinelli è in questura dalle ore 19 circa del 12 dicembre 1969. Noi accusiamo la polizia di essere la responsabile della morte di Giuseppe Pinelli, arrestato violando per ben due volte gli stessi regolamenti del codice fascista. Accusiamo il questore e i dirigenti della polizia di Milano di aver dichiarato alla stampa che il suicidio di Pinelli era la prova della sua colpevolezza e di aver volontariamente nascosto il suo alibi, dichiarando che era accaduto. Gli stessi inquisitori hanno dichiarato di non aver redatto alcun verbale degli interrogatori di Pinelli. Pertanto, ogni eventuale verbale che venisse in seguito tirato fuori è da considerarsi falso. Accusiamo la polizia italiana di aver deliberatamente impedito che l'inchiesta si svolgesse sotto il controllo di un magistrato, con la partecipazione degli avvocati della difesa. Accusiamo i magistrati e la polizia di aver ripetutamente violato il segreto istruttorio, diffondendo voci e accuse tendenti a diffamare di fronte all'opinione pubblica un uomo assolutamente innocente, ma per loro colpevole di essere anarchico. Io non sapevo niente, non sapevo neanche della bomba. La TV era rotta. Alle 20 sono venuti dei poliziotti a cercare Pino e, visto che non c'era, hanno telefonato in questura. E in questura hanno detto che era già lì. Così ho saputo che era fermato, ma non sapevo il perché. I poliziotti erano vaghi e io non ho insistito. E poi stavano facendo una perquisizione, la prima della mia vita. Ti senti insultata quando guardano le tue cose. Io ho un senso del possesso molto forte. Poi guardano una copia di tesi che era lì sul tavolo e mi chiedono se lavoro per hobby. Verso mezzanotte Pino mi telefona e mi dice che erano in tanti fermati e quindi avrebbe tardato. E me la ricordo come una telefonata rassicurante, come le successive che mi ha fatto. era bloccato in questura, ma un minimo di libertà di movimento l'aveva. Per uno accusato di strage è molto strano. In quella serata mi telefona anche Calabresi. Non si presenta, ma io lo riconosco, perché nei mesi precedenti spesso lui telefonava per cercare Pino, per cercare mio marito. Mi telefona Calabresi e mi chiede del libretto di viaggio di Pino. Volevano cercare qualcosa per incastrarlo, ma non per Piazza Fontana, perché poi il suo alibi era di ferro, ma forse per le bombe sui treni ad agosto. Quelle bombe messe sui treni a Roma, era la notte tra l'8 e il 9 agosto del 69. E quindi volevano vedere se fosse stato a Roma proprio in quel periodo. È certo che un ferroviere che va a mettere le bombe sui treni è ovvio che adoperi il suo libretto di viaggio per farlo. E adesso parliamo dell'alibi di Pinelli in riferimento alla strage. La bomba esplode alle ore 16:37. Lui, secondo amici, conoscenti e avventori, è al bar Fabiani, che è situato nei pressi della sua abitazione in via Preneste, zona San Siro. Mario Magni, detto Marietto, pensionato, addirittura dice di aver giocato a carte con lui dalle 15 alle 17:30. Sono sicuro di quello che dico, perché da quando sono in pensione mi insegno tutto e la mia giornata è calibrata come un orologio. Gli ho vinto anche qualche soldo, dice Marietto. Questa testimonianza è avvallata anche da 5 clienti, tra cui 2 agenti di pubblica sicurezza, quindi clienti che non conoscono Pinelli direttamente. E questi 2 agenti di pubblica sicurezza dicono: l'abbiamo visto proprio in quel bar, quando invece in Piazza Fontana esplodeva la bomba. Almeno la loro testimonianza darà sicurezza. Sono le ore 22 di lunedì 15 dicembre 1969 e sono circa 75 ore, minuto più, minuto meno, che Pino è sequestrato in questura. Perché? Gian Giacomo Feltrinelli, che è un editore di sinistra, di estrema sinistra, e con tutte le sue pubblicazioni pericolose, collane di libri, opuscoli a buon mercato in cui si predica la guerriglia, il creare molti Vietnam, e la profezia, e lui è l'unico a dirlo in quegli anni, la profezia della minaccia di imporre un regime autoritario proprio qui in Italia, è l'unico a dirlo, perché in Italia qualche tentativo di golpe c'è stato. Per gli avversari, dimostrare che Feltrinelli è un estremista assassino di fatto, oltre che sui libri, significherebbe spazzare via un pericoloso e incomodo editore e i tanti seguaci delle sue pubblicazioni. Pensate che nei giorni successivi il solito questore guida dice che Feltrinelli è tra i possibili responsabili della strage. Il giorno dopo, cioè il 19 dicembre, il solito giudice Amati fa perquisire il suo studio. Il Ministero degli Interni gli ritira addirittura il passaporto, e lui però in quel periodo è all'estero, e i soliti giornali borghesi, quelli della catena del petroliere Monti per intenderci, creano senza mezzi termini la figura dell'editore dinamitardo, finanziatore degli anarchici. E quindi l'accoppiata in quei giorni è fatta, Feltrinelli, anarchici. È fatta perché è stata scelta, forse a tavolino. Feltrinelli, amico degli anarchici, Feltrinelli, il mandante degli anarchici, gli esecutori materiali. E Pino deve dire quello che si aspettano da lui, perché è un test credibilissimo per la sua insospettabilità, per il rifiuto alla violenza che ha sempre manifestato, e perché soprattutto è una persona autorevole tra gli anarchici, ma non solo, soprattutto nell'area milanese e lombarda. Pinelli è molto ascoltato e molto apprezzato. In più, e i poliziotti lo conoscono bene, è ritenuto emotivo, che si può facilmente terrorizzare, e soprattutto anche lo ritengono un po' ingenuo. E nelle 75 ore in cui è detenuto, per potergli fare firmare dei verbali redatti dalla stessa polizia, usano di base questo schema. Lo intimidiscono e continuano a dirgli ripetutamente: il tuo alibi non c'è, il tuo alibi è caduto. Poi lo fiaccano, perché non lo lasciano dormire. In queste 75 ore dorme poche ore in una branda, poi è sempre sveglio. Gli danno da mangiare poco, solo panini, è sempre sotto pressione perché deve stare o in corridoio oppure deve essere interrogato dentro le stanze della questura. E poi lo impauriscono perché gli fanno credere che loro sono convinti che lui abbia fatto parte del comando che ha messo la bomba in piazza Fontana. Pinelli è ingenuo, è facilmente terrorizzabile, però in queste 75 ore Pinelli resiste. E quindi siamo alle ore 22 del 15 dicembre 1969. E adesso comincia l'interrogatorio fatale. E sì, perché Pinelli viene interrogato tantissime volte e ad ogni interrogatorio c'è sempre un pezzo più grosso della questura che lo interroga. E adesso entra alle ore 22 del 15 dicembre 69, entra nell'ufficio di Calabresi, che è il pezzo grosso, il pezzo più importante della questura che può fare ancora gli interrogatori. Quindi Pinelli sa che questo è un interrogatorio importantissimo per il suo futuro. Gli viene contestato tutto, fatti, nomi, circostanze, ma un interrogatorio del genere è una lama a doppio taglio. Per chiedere bisogna dire, e Pinelli capisce che lo vogliono far cadere in un tranello, intuisce, grazie alle circostanze contestate, la funzione di provocatore svolta da qualcuno che si è infiltrato nel suo gruppo. Coglie il legame che c'è tra il provocatore e chi lo sta interrogando, e allora sbotta. S'arrabbia, parla, minaccia, chiede che certi nomi e certe sue affermazioni siano messe a verbale. Fra chi lo interroga, non tutti hanno capito quello che Pinelli ha capito, ma alcuni di loro sì. E allora parte, fra i tanti, quel colpo decisivo che lo fa stramazzare sulla sedia, che gli fa perdere i sensi. Sta male. Forse adesso chiamano l'ambulanza, però non c'è tempo, ha bisogno d'aria e quindi immediatamente bisogna avvicinarlo alla finestra, appoggiare il suo corpo inanimato alla sbarra di ferro trasversale, bassa, troppo bassa e non trattiene Pino. E Pino scivola giù, nel vuoto. E questa è la versione che Savino Lograno, il tenente dei carabinieri presente all'interno della stanza, fornirà a un suo superiore e che è arrivata a chi ha fatto la controinchiesta nei mesi successivi. Non so, magari è la verità, magari è una bufala cosmica, magari è una delle verità, chissà. Ma chi è Savino Lograno? Savino Lograno è nato in provincia di Bari il 16 gennaio del 1940, quindi rispetto alla strage tra poco compie 30 anni. Auguri. È un ufficiale dei carabinieri, tenente, è in questura probabilmente come testimone degli interrogatori, probabilmente è all'oscuro di tutto, osserva e probabilmente non capisce nulla di quello che sta succedendo. È l'unico dei presenti che scende per vedere Pinelli spiaccicato al suolo. Nel febbraio del 1970, forse come regalo per i suoi 30 anni, viene promosso capitano e trasferito, e di lui non si saprà più nulla. E io spero che Lograno sia vivo, addirittura che sia anche diventato generale, magari con qualche promozione, con qualche merito diverso rispetto a quella da tenente a capitano. E spero che adesso, 69 anni, sia in pensione, che percepisca una pensione da generale, quindi che stia bene, lui come anche gli altri brigadieri, marescialli che erano presenti all'interno della stanza, tutti vivi, in pensione, ricchi e in buona salute. Pinelli avrebbe 80 anni, a ottobre ne compirebbe 81, avrebbe una buona pensione da ferroviere perché sarebbe andato in pensione alla fine degli anni 80, anni ancora abbastanza buoni, e sarebbe nonno. Quando ho cominciato questa ricerca, la prima voglia era andare a cercare i presenti nella stanza, andare a fare una chiacchiera con loro, e poi però piano piano mi sono fermato e mi sono detto: non hanno parlato per così tanti anni anche di fronte a dei giudici sotto giuramento e vanno a parlare, a dire la verità di fronte a un giullare come me, e allora poi piano piano ho abbandonato questa ipotesi. Spero però che da quella notte fredda di dicembre ogni giorno pensino a quello che è successo e magari chissà, spero che almeno una volta abbiano letto, anche senza capirla, una poesia che sta sulla tomba di Pinelli. Vidi una donna bellissima, con gli occhi bendati, eretta sui gradini di un tempio di marmo. Grandi moltitudini passavano davanti a lei, sollevando la faccia ad implorarla. Nella mano sinistra teneva una spada, e brandiva questa spada, colpendo a volte un bambino, a volte un operaio, ora una donna che tentava sottrarsi, ora un folle. E nella destra teneva una bilancia. In questa bilancia venivano gettati pezzi d'oro da chi schivava i colpi della spada. Un uomo con la toga nera lesse da un manoscritto: «Ella non rispetta gli uomini». Poi un giovanotto col berretto rosso balzò al suo fianco e le strappò la benda. Ed ecco, le ciglia erano corrose, dalle palpebre imputridite, le pupille bruciate da un muco latteo, la follia di un'anima morente le era scritta sul volto, ma la moltitudine vide perché portava la benda. E questa poesia è di Edgar Lee Masters. Dal funerale di Pino veniamo via che è buio fitto. Vittorio Sereni, Marco Forti e Giovanni Roboni camminano con me sulla ghiaia del vialetto. Ci sorpassano coppie di giovani nelle loro vesti militaresche, il braccio di lui intorno alla spalla di lei, carichi, così immagino, di rancore e amore. Che cosa sarà di loro? Non so come, ma ho la certezza che con la strage di pochi giorni fa, l'orrendo coro dei giornali e questo assassinio di Pinelli è davvero finita un'età, cominciata ai primi del decennio. È possibile il silenzio degli uomini dell'opinione, i difensori dello Stato del diritto? È possibile? Sì, è possibile. La paura è veloce. Lo dico e i vicini sono della mia stessa opinione. Chissà che cosa ci porterà il domani. L'alone di luce della città è davanti a noi, in fondo, a Viale Certosa e a Corso Sempione, oltre il castello. Ci salutiamo, ci stringiamo le sciarpe al collo, ci separiamo e andiamo in cerca delle nostre auto sul piazzale. C'è un cane morto là, mezzo alla strada. Vicino c'è un gatto che lo sta a guardare. Lui si è fermato, lui si è messo a miagolare. Lui si è fermato e ora piange, ora piange, ora piange di dolore. Solitaria è la via, piange. Anch'io con il gatto mi metto a miagolare. Piango per lui. Piango per lui, piango per lui, per la fine, piango per la fine di un amore. Piango per me, per l'amico mio laggiù oltre il mare. Oh mio Signore, tu che guardi questo mondo, guarda lì, quei cani come piangono, guarda, Signore, quanta gente lì sul capezzale, vedi, solo la fine in compassione, perché lo sai, si piange, sì. Ma già si pensa al domani. Si piange solo per far piacere a questi sporchi ideali. Scende una lacrima, con la mano l'asciugo. Passa una lucciola, si posa su un muro. Cade una stella, illumina la terra, gira la farfalla intorno alla lanterna. Oh mio Signore, tu che guardi questo mondo, guarda lì, quei cani come piangono, guarda, guarda, guarda, signore, quanta gente lì sul capezzale, vedi, vedi, solo la fine, in compassione, perché lo sai, si piange sì, ma già, già si pensa al domani, si piange solo per far piacere a questi sporchi ideali. C'è un Cristo morto là fra quattro mura. Vicino, vicino c'è tanta gente che lo sta a guardare. C'è quella che dice, poverino, poverino, sì, sì, era un grand'uomo, sì, sì. Sì, sì, era un grand'uomo. C'è quella poi che guarda se il soffitto è nero, se è grosso il cielo, tocca al vicino e dice, poverino, sì, era un grand'uomo. Oh mio Signore, tu che guardi questo mondo, guarda lì, quei cani come piangono, guarda, guarda, guarda, signore, quanta gente lì sul capezzale, vedi, vedi, solo la fine, con compassione, perché lo sai, si piange, sì, ma già, già si pensa al domani, si piange solo per far piacere a questi sporchi ideali. E adesso arriviamo al processo sulla morte di Pinelli. Il 27 ottobre 1975 si chiude l'istruttoria sulla morte del ferroviere Giuseppe Pinelli, che entrò innocente in un ufficio al quarto piano della Questura di Milano e ne uscì dalla finestra la notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969. Per la giustizia italiana è una morte normale, non bisogna condannare nessuno, peggio, come ha fatto il giudice istruttore dottor Gerardo D'Ambrosio, condannarne uno per un reato formale e amnistiarlo con un decreto del Presidente della Repubblica del maggio 1970, fatto ad hoc in concomitanza con la fine della prima inchiesta. Quindi una condanna ben sapendo che non sarebbe stata messa in pratica nei confronti del capo di Calabresi, il dottor Antonino Allegra, riguardo la detenzione di Pinelli, ben oltre i limiti della legge. Ma dai, ma se questa legge fosse stata rispettata, Pinelli sarebbe vivo. Dopodiché, Pinelli non esiste più. Il fatto basta, non sussiste. Per la precisione ci furono due inchieste. La prima, veramente indecente, fu chiusa con una rapida archiviazione, ma dal verdetto sibillino, morte accidentale, non suicidio. Pinelli era stato fermato illegalmente. La legge prevede che una persona può essere fermata senza richiesta della magistratura solo in casi eccezionali e comunque deve essere avvisata entro 48 ore. È la Costituzione che lo prevede, mi sembra di ricordare l'articolo 13, che è divertentissimo leggerlo. Pinelli fu fermato senza avvisare la magistratura e queste sono parole di D'Ambrosio e sempre D'Ambrosio dice: la prima inchiesta fu molto riguardosa nei confronti della polizia e dei carabinieri. Allora succedeva spesso. Invece adesso non succede più. Non fu permessa ai periti della famiglia di assistere all'autopsia, una cosa assurda e che alimentò i peggiori sospetti. Il 24 giugno del 1971, Licia Rognini, la vedova Pinelli, sentendosi presa in giro da tutte le istituzioni che dovrebbero tutelare tutti i cittadini e anche quelli innocenti, si gioca la carta della denuncia per omicidio volontario. L'omicidio volontario vuol dire che hai la volontà di uccidere, che è differente da quello premeditato, che hai studiato come ucciderlo, quello preterintenzionale, che sfiga non volevo ucciderlo, oppure quello colposo, non era nei programmi ucciderlo. Quindi la denuncia è molto precisa. L'omicidio volontario. Torniamo a quella notte, a quella fatale notte. L'ora della morte. Per D'Ambrosio è tutto chiaro come il sole. È morto pochissimo prima di mezzanotte. L'ambulanza è stata chiamata alle 001 da chi non si sa, ma lo dice il registro dei vigili, che non è possibile modificare. L'ambulanza arriva alle 005 e torna in ospedale alle 010. L'ospedale è il Fate Bene Fratelli, quindi la questura si trova in via Fate Bene Fratelli e quindi l'ambulanza ci mette pochissimo ad arrivare in questura. E spesso nel mio deambulare italico a raccontare le mie storie, spesso vedo che le questure e gli ospedali sono molto vicini, forse così almeno le ambulanze fanno in fretta ad arrivare. Torniamo all'inchiesta, anzi andiamo alla controinchiesta. Cosa dice la controinchiesta? Se si leggono i giornali che avevano i cronisti in questura, usciti il 16 dicembre, quindi poche ore dopo la caduta di Pinelli, tutti dicono che Pinelli è caduto alle 00:03. Nei giorni seguenti questo particolare viene modificato, prima in circa la mezzanotte, poi con il tempo ufficiale delle 23:57. Qualche giorno dopo la morte di Pinelli, due agenti della squadra politica della questura si presentano al centralino telefonico dei vigili urbani per controllare il momento esatto di registrazione della chiamata. Ma perché fanno questo, visto che è la magistratura e non la polizia che si occupa dell'inchiesta? Perché preoccuparsi sull'orario di chiamata dell'ambulanza? La chiamata potrebbe essere stata fatta prima che Pinelli cadesse? E questa è una domanda lecita che aspetta ancora una risposta. Aldo Palumbo è il giornalista dell'Unità che ha sentito il tonfo fatale. Rendiamoci conto che in questura ci sono tutti i giornali. L'opinione pubblica proprio punta tutto su quello che fanno i questurini. È la prima strage in Italia, quella di Piazza Fontana, quindi l'opinione pubblica è tutta lì. Intorno alla mezzanotte Palumbo pensa che non stia succedendo niente, quindi decide di tornare al giornale, quindi scende, si sta per avviare verso l'uscita, c'è il cortile, si accende una sigaretta e sente il tonfo di Pinelli, e prima dice di aver sentito altri due colpi, che erano quelli del corpo che urtava contro i cornicioni. Aldo Palumbo si avvicina a Pinelli, morente, ed è l'unico momento, prima che muoia due ore dopo, che Pinelli non ha poliziotti accanto a sé da quando è stato fermato per accertamenti. Ai primi di gennaio del 1970 Palumbo trova la sua abitazione sottosopra. E questi ladri non hanno rubato nulla, anche se i soldi e pochi gioielli erano molto in evidenza. O cercavano qualcosa di preciso, oppure si è trattato di un avvertimento a tenere la bocca chiusa, casomai Pinelli gli avesse proferito qualche cosa. Pinelli cade letteralmente scivolando lungo il muro, tanto che rimbalza contro due stretti cornicioni sottostanti, e quindi evidentemente non si è dato nessuno slancio. Cade senza un grido, senza nessuna reazione a livello istintivo, nemmeno quella di portarsi le mani a proteggersi durante la scivolata, visto che non presentano escoriazioni le mani. E adesso arriviamo alle dichiarazioni dei questurini. La prima è del portiere del Club Med di Ventotene, vi ricordate, il questore Marcello Guida. 20 minuti dopo dichiara in una conferenza stampa. Lui riesce a organizzare una conferenza stampa intorno a mezzanotte 20 all'interno dell'ospedale. E cosa dice Marcello Guida di fronte ai giornalisti? Quindi è tutto nero su bianco. Era fortemente indiziato. Ci aveva fornito un alibi, ma era completamente caduto. Il funzionario e l'ufficiale gli hanno rivolto un'ultima contestazione. Un nome, un gruppo, li conosceva? Li aveva visti? Quando? Non poteva più difendersi. Ormai Valpreda aveva confessato tutto. A questa affermazione Pinelli era rimasto visibilmente scosso. Calabresi esce per andare dal dottor Allegra, il suo superiore, per riferire dell'atteggiamento di Pinelli, il famoso atteggiamento anarchico. D'improvviso Giuseppe Pinelli è scattato, ha spalancato i battenti della finestra socchiusa e all'urlo «È la fine dell'anarchia!» si è buttato nel vuoto. E lo scrive il Corriere della Sera il 16 dicembre del 69, che non è mai stato smentito. Quando si è accorto che lo Stato che lui combatteva lo stava per incastrare, ha agito come avrei agito io se fossi un anarchico. Questo lo scrive l'Unità il 17 dicembre del 69. E probabilmente Aldo Palumbo non riesce poi a tornare al giornale in tempo, e quindi l'Unità esce con questo articolo non il 16 dicembre, ma il 17 di dicembre. È stato coerente con i suoi principi. E questo lo scrive il Corriere di Informazione del 16 dicembre, sempre del 69, e anche questo giornale non è mai stato né smentito né querelato. E queste sono affermazioni che nessun dubbio potevano lasciare sulla colpevolezza di Pinelli. In più, Il brigadiere Panessa parla di scatto felino. Il tenente Lograno ed il brigadiere Mainardi parlano di scatto verso la finestra. Il brigadiere Mucilli parla di tuffo verso la finestra. Il brigadiere Caracuta di tuffo oltre la ringhiera. Il commissario Calabresi non dice niente perché non c'era. Era dal suo capo a dirgli che Pinelli era scosso, forse la palla su Valpreda era un po' grossa. Questo comunque è suicidio. Con queste affermazioni non può essere altro. Lui si trova al quarto piano, se salta dalla finestra di sua spontanea volontà lanciandosi, insomma, può solo che uccidersi. I giornali nei giorni successivi parlano di questa caduta anomala, di questa scivolata. E poi Valpreda non ha confessato niente. Cosa aveva da confessare poi questore Guida? E allora ci sono nuove dichiarazioni. Cosa dice Marcello Guida? Quando Pinelli ha spalancato la finestra, abbiamo tentato di fermarlo e ci siamo parzialmente riusciti, nel senso che ne abbiamo fermato lo slancio. Come dire, ecco perché è scivolato lungo il muro. Anche questa affermazione comunque conferma il suicidio. E adesso arriviamo alla terza versione dei fatti. 17 gennaio 1970, in esclusiva per il Corriere della Sera. Il 17 gennaio vuol dire un mese dopo. In esclusiva per il Corriere della Sera, Marcello Guida viene intervistato e nel salottino bello di Corso Solferino, la sede del Corriere della Sera, risponde alle domande. E che affermazioni fa? Quando Pinelli ha spalancato la finestra, abbiamo tentato di fermarlo ed uno dei sottufficiali presenti, il brigadiere Vito Panessa, con un balzo cercò di afferrarlo e salvarlo e in mano gli rimase una scarpa del suicida. E anche questa affermazione comunque conferma il suicidio, anche se sfortunatamente per Panessa i giornalisti accorsi nel cortile della questura dopo l'allarme di Palumbo ricordano tutti che Pinelli le aveva entrambe le scarpe ai piedi. Panessa, che cosa ti è rimasto in mano? Adesso non mi soffermo sulle tre scarpe del Pinelli, visto che all'epoca Dario Fo ne fece un capolavoro. Quando l'alibi di Pinelli risulterà valido, ovviamente le affermazioni a caldo del portiere del Club Med di Ventotene saranno tutte da cacciare nel cesso. E allora nuove dichiarazioni. Pinelli? Bravo ragazzo. Nessuno riesce a capacitarsi del suo gesto. E poi affermano anche che la tragedia esplosa nel corso di un interrogatorio idiliaco, civile, tranquillo, come era nello stile di Calabresi, che non piaceva per niente, tra l'altro, al suo superiore Allegra. Questo stile di Calabresi con gli scambi di sigaretta, risate, pacche sulle spalle. E comunque anche queste affermazioni confermano il suicidio. E adesso andiamo alle dichiarazioni di molti mesi dopo, durante la prima inchiesta, sotto giuramento. Lograno, ormai capitano, ammette di non aver visto lo scatto verso la finestra, né tantomeno il tuffo. Dopo che Pinelli introdusse la mano tra i battenti della finestra, mi distrassi, sentii il rumore delle ante e vidi due sottufficiali che facevano di tutto per portarsi nel vano balcone. Vidi le suole delle scarpe di Pinelli all'altezza della ringhiera. Mucilli ammette di non aver visto Pinelli tuffarsi oltre la ringhiera. Sentii gridare «si è buttato» ed il rumore dello sbattere della finestra e i piedi di Pinelli che precipitava testa in giù oltre la metà della ringhiera. I piedi di Pinelli forse li ha visti tutti e tre. Caracuta ammette di aver mentito al PM Caizzi, per intendersi quello della morte accidentale, ad un primo interrogatorio. Mentre rileggevo le copie del verbale, udii sbattere la finestra, vidi Panessa nei pressi della ringhiera sporgersi come per trattenere qualcosa. Mainardi e Panessa, pur mantenendo la versione del suicidio, non parlano più di scatto felino, ma di apertura repentina del battente e di balzo nel vuoto. E questo è tutto nero su bianco, atti ufficiali durante il processo, il primo processo. E comunque anche queste affermazioni confermano il suicidio e siamo mesi dopo, quasi un anno circa. E quindi qui ci troviamo di fronte a cinque persone, tutori dell'ordine, che parlano un pochino a vanvera, davanti a dei PM sotto giuramento. E quando si apre la seconda inchiesta, e questa seconda inchiesta ce l'ha in mano D'Ambrosio, e cosa dice D'Ambrosio? Insomma, per D'Ambrosio le ultime versioni, quelle che ho detto adesso, appaiono più attendibili, non solo per l'assenza di suggestioni, ma anche per la diversità di percezione che più persone presenti ad un episodio hanno. Questa frase la ripeto perché io me la sono ripetuta più volte perché non l'ho capito. Allora, cosa dice D'Ambrosio? Le ultime versioni fatte dai questurini appaiono più attendibili, non solo per l'assenza di suggestioni, quindi le fanno dopo un po' di mesi, tranquilli, a freddo, dopo che ci hanno un po' ragionato, ma anche per la diversità di percezione che più persone presenti ad un episodio hanno. Quindi stiamo in 5 o 6 in una stanza, vediamo uno che cade da una finestra e 5 o 6 persone hanno percezioni diverse di quello che è accaduto. Anche se sono questurini, hanno avuto un po' di mesi di tempo per mettersi d'accordo su cosa dire. E poi la suggestione mi pare un po' esagerata, anche perché le dichiarazioni poi non le hanno fatte appena il fatto è avvenuto, e poi sono persone che girano anche con un'arma, sono addestrati, alcuni di loro sono verso i 50 anni all'epoca dei fatti, hanno 20-25 anni di carriera alle spalle, ma insomma, D'Ambrosio, su... Torniamo alla controinchiesta. Pasquale Valitutti, anche lui anarchico, fermato, dichiara: verso le 20 Pino è stato portato via e quando ho chiesto ad una guardia dove fosse mi ha risposto a casa. Verso le 23:30 sento dei rumori sospetti come di una rissa e ho pensato che Pinelli fosse ancora lì e che lo stessero picchiando. Dopo un po' c'è stato il cambio del piantone di turno fino a mezzanotte. Poco dopo ho sentito come delle sedie smosse, ho visto gente che correva nel corridoio verso l'uscita gridando «Si è gettato!». Quindi dopo il cambio di mezzanotte assistito a queste, non prima. Alle mie domande hanno risposto che si era gettato Pinelli, che hanno cercato di trattenerlo ma non ci sono riusciti. Calabresi mi ha detto che stavano parlando scherzosamente di Valpreda, facendomi chiaramente capire che era nella stanza nel momento in cui Pinelli cascò. Inoltre mi disse sia lui che Panessa che Pinelli era un delinquente, aveva le mani in pasta dappertutto, sapeva molte cose sugli attentati del 25 aprile. Dalla posizione in cui mi trovavo potevo vedere con chiarezza il pezzo di corridoio che Calabresi avrebbe potuto percorrere per andare nello studio di Allegra. Nei minuti precedenti al fatto Calabresi non è passato per quel pezzo di corridoio. Per D'Ambrosio non è un problema, per due motivi. Il primo è, insomma, l'anarchico potrebbe essersi distratto un attimo, l'anarchico Valitutti, e quindi potrebbe non aver visto bene che Calabresi fosse uscito dalla stanza. E secondo è che nell'economia della versione data dalla polizia del suicidio, che poi era una palla colossale, era molto meglio che Calabresi fosse nella stanza per la casualità del gesto. Insomma, dire superficiale ad Ambrosio e quasi fargli un complimento. Comunque adesso vi leggo un resoconto tratto dal settimanale Vie Nuove delle settimane seguenti. Il particolare che stupì i medici fu che il corpo non presentava lesioni esterne, non perdeva sangue da naso e orecchie, come avrebbe dovuto essere se avesse battuto la testa. La necroscopia ha accertato una lesione bulbare di centimetri 6x3 all'altezza del collo. Potrebbe essere stata provocata prima della caduta? Sembra un colpo di karate. Fantasie? Ne sono state dette tante, una più una meno. Il karate comunque è insegnato nelle scuole di polizia. Quella notte si era trasferito in ospedale lo stato maggiore della polizia, compreso il nostro amico guida. La polizia era presente anche in rianimazione, un poliziotto in borghese con i baffetti neri e il distintivo all'occhiello della giacca non mollò un attimo Pinelli morente. Ma chi gli ha dato l'ordine di entrare compiendo un abuso di autorità che non è tollerato negli ospedali? C'era forse la paura che Pinelli potesse parlare? Dei due medici che hanno cercato di salvarlo, dopo molte settimane su istanza di Licia Rognini, solo uno viene ascoltato e subito dopo si vocifera nel Palazzo di Giustizia che la polizia lo abbia pesantemente consigliato di non porsi troppi interrogativi. Il caso Pinelli è un caso da archiviare. E così veniamo alle conclusioni cui è arrivato D'Ambrosio, che sicuramente ha fatto una splendida carriera, e quindi tanti complimenti al D'Ambrosio politico e magistrato, ma con Pinelli diciamo che ha pestato una merda grossa a quattro piani. Le ipotesi di precipitazione per D'Ambrosio sono tre. Una, il suicidio, possibile ma non verosimile. Due, il malore, verosimile. Tre, lancio volontario di corpo inanimato, assolutamente inconsistente. Lascio perdere la prima ipotesi che viene accantonata, anche se tutti presenti al fattaccio dicono il contrario, e lascio perdere anche la terza che viene accantonata, forse dopo le prove fatte da un tuffatore in piscina. E quindi veniamo alla seconda, quella con cui si chiude l'inchiesta, e cioè quella del malore. Dalla sera del 12 dicembre alla sera del 15, Pinelli dorme una notte in branda, fuma moltissimo, mangia pochissimo, solo panini, è sempre in attesa nel salone o è interrogato. Ad ogni interrogatorio sono pezzi sempre più grossi a fargli le domande. Vari compagni vengono rilasciati, lui è sempre lì. La mancanza di sonno, la probabile intossicazione da fumo, lo stato ansioso, il surmenage possono aver provocato l'alterazione del centro di equilibrio. Parole di D'Ambrosio. Sempre parole di D'Ambrosio, l'interrogatorio è terminato, nulla è emerso contro di lui. Calabresi si è allontanato, cosa deciderà Allegra? Finirà San Vittore con l'infamante marchio di mostro o tornerà libero? Accende una sigaretta offerta da Mainardi. L'aria della stanza è insopportabile. Apre il balcone, si avvicina alla ringhiera per respirare una boccata d'aria. Una improvvisa vertigine, un atto di difesa in direzione sbagliata, il corpo ruota sulla ringhiera e precipita nel vuoto. L'ipotesi del malore è verosimile. E così Pinelli morì, in modo tutto suo, di morte naturale. Di questa singolarissima morte naturale non si accorsero i presenti, visto che tutti diedero all'unisono testimonianze più o meno acrobatiche del suicidio, ed erano in tanti testimoni per un interrogato solo. Un malore, dice D'Ambrosio, ma forse qualcos'altro, si può immaginare di tutto. Potrei immaginare, per esempio, che Pino abbia detto una battuta ironica, sfottente, a uno degli agenti e che uno di loro si sia arrabbiato e che proprio davanti alla finestra abbia cercato di dargli uno schiaffo, un colpo. Penso a quella macchia ovalare che gli hanno trovato sul collo. Un colpo ti fa perdere l'equilibrio. Spiegherebbe il volo di Pino senza un grido, un lamento. Spiegherebbe la confusione nella stanza che sente Lello Valitutti, che si trova nel corridoio in attesa di essere interrogato. Spiegherebbe il fatto che nessuno dei poliziotti, ma il carabiniere, va giù in cortile a vedere cosa è successo. Spiegherebbe perché inventano una serie incredibile di bugie invece di dire semplicemente che un fermato ha avuto un malore. In tutti questi anni l'unica cosa di cui sono stata veramente certa è che Pino non si è suicidato. Io non dico che sia andata così, ma se bisogna prendere per buona la ricostruzione di D'Ambrosio e cercare un finale verosimile, questo non lo è. Soltanto la verità potrà fermare il tremore delle mie mani, restituirmi una quiete capace di tenere lontani i ricordi. Voglio sapere chi ha fatto che cosa. Chiedo che siano attribuite delle responsabilità. Mio marito è entrato vivo in questura e ne è uscito morto. Perché? E chi ne è responsabile? Uno Stato forte e credibile sa afferrare e sopportare la verità. Se è spaventato dalla verità, quello Stato rinuncia a se stesso, si indebolisce, perde, si dichiara sconfitto. La strada per chiudere questa maledetta stagione di odio può essere soltanto la giustizia. Che si sappia chi ha ucciso Pino. Chi ha ucciso Pino ne sia riconosciuto responsabile. Chissà, trovi il coraggio di dire la verità. È la sola strada verso una pacificazione che sappia liberarci del passato. Voglio conoscere la verità. La verità non è la verità giudiziaria. Non mi interessa la punizione dei colpevoli, non mi piacciono le prigioni. Non è in prigione che i colpevoli comprendono la natura dei propri errori. Non parlo della giustizia dei tribunali, ormai. Per me giustizia è la consapevolezza degli uomini di che cosa è accaduto.